c'è la natività, quella che celebriamo oggi, di cui facciamo memoria oggi, c'è quella del cuore, Gesù che o abita in noi o niente. La terza venuta è alla fine verrà a giudicare i vivi e i morti. Io dico, alla fine accoglierà nel suo banchetto tutti coloro che sono passati attraverso la grande tribolazione. Sulla scorta di questo spicco di riflessione, mi sono permesso di non fare grandi riflessioni, ma offrire come una specie di preghiera. Comincio così. Dio guarda il cuore. A Betlemme un canto avvolge i pastori. Pace in terra agli uomini che Dio ama. Il buio della grotta, la luce della nascita. La venuta di Cristo ha diviso in due il tempo della storia. Il ciclo della natura ha lasciato il posto alla promessa del futuro. Il richiamo alla nascita, che il cristianesimo ripropone ogni anno, sul registro della memoria religiosa e della festa, allude a quel compito che, scusate la citazione, Pablo Neruda senza troppa enfasi disse: è per rinascere che siamo nati. È così che la vita riassume la sua serietà. Si attribuisce all'ingenuità dei buoni sentimenti con cui cerchiamo ogni anno di questi tempi di recitare la bontà, la serenità, la pace. Ogni uomo per nascere deve venire alla luce. Da quel fondo oscuro che è il ventre della madre, l'antro dove siamo concepiti per una nascita, quella nascita che da solo non basta e che invoca una rinascita per trovare il senso e il fine ultimo della propria vita. Se esprimiamo un augurio che non corrisponde a una formalità, ma a un pensiero esistenziale, pace agli uomini che egli ama. Allora, buon Natale a chi, forse anche tra noi, ancora ha paura di Dio. Egli invece viene come un bambino. Un bambino non giudica, non emette giudizi morali. Un bambino non può far paura. Fa leva sulla fiducia, sull'attenzione, sulla carezza dell'amore. Vive perché è amato. Lo puoi rifiutare, ma lui non ti rifiuterà mai. Buon Natale a chi ha abbandonato Dio e dice di aver perso la fede in lui. Anche se tu lo perdi, lui, Dio, non può perderti. Non perde la fiducia in te. Non è finita la speranza. Per questo nasce un uomo, lui, il figlio degli uomini, perché ha fiducia in ogni uomo e donna dentro la nostra storia, sia nella parte oscura, sia nella parte meravigliosa. Buon Natale a tutti quelli che vivono in situazioni irregolari, dopo le ferite di vicende particolari, di amori feriti o lacerati. Consideratevi come i pastori di Betlemme. Erano ai margini, fuori dalle regole, impuri perché mangiavano senza lavarsi le mani, perché non ardevano, non andavano nella sinagoga, sempre dietro ai loro greggi. Ebbene, proprio voi siete i primi a ricevere la buona notizia degli angeli, perché davanti a Dio vale l'uomo prima della legge. Conta il cuore dell'uomo, non le etichette. Se l'uomo tende a guardare le apparenze, Dio guarda il cuore. Vado verso la fine, non la tiro in ombra. Io credo che questo basti. Basta essere uomo o donna. Non occorre altro dal giorno in cui Dio ha messo la sua gloria in un bambino. Buon Natale dunque a noi che siamo semplicemente umani. E buon Natale a chi è ricco di agitazioni, ma dentro il silenzio che reclama spazio. Buon Natale a chi, anche tra noi, si sente affaticato dai lati oscuri della vita, in difficoltà a capire il senso di tanta fatica e qualche volta di sofferenza. Buon Natale a chi, anche tra noi, ha e sta soffrendo troppo. Questo Dio bambino può dare un poco di luce, perché viene come la luce vera che illumina ogni uomo, dice l'Evangelista Giovanni. Ogni uomo, e nessuno è perduto, disperato, nessuno è fuori dal raggio di questa luce, e ognuno di noi in questo momento ha davanti molti volti. Buon Natale a chi ha perso il gusto di vivere, perché niente più lo soddisfa. Questo Dio bambino può restituire il sapore della vita, che è il piacere di sentirsi amati e la consapevolezza di essere capaci di amare. Buon Natale a noi, perché Dio è presente qui, è qui con noi, è con chi portiamo nel cuore. Non siamo soli, né potremo mai essere soli. Concludo. Il Natale non è la confezione dei buoni sentimenti. Il tempo di questa festa è molto più forte. In gioco c'è l'uomo e la storia, guardati in modo molto esigente. È il punto di vista per cui nascere non basta. È per rinascere che siamo nati. Thank you. Don Piero, buona